Borse in disfatta. Hai visto, il campionato di calcio non è cominciato a fine agosto come era previsto. Chi se ne frega. Ma infatti. Abbiamo finito? Chiedo asilo. E abbiamo finito, dai, abbiamo appena cominciato, cappe. Cominciamo subito col dire che uno sciopero, da che mondo è mondo, è una giornata di lavoro persa, non pagata e mai recuperata. Non pagata? Certo, e se no che sciopero è? Nel caso di questo sciopero, e cioè lo sciopero dei calciatori, la giornata sarà recuperata e come sappiamo i giocatori sono pagati sia che giochino sia che non giochino, quindi che sciopero è? Ma chi se ne frega? E infatti... E allora basta con lo sciopero dei calciatori, scusa. Allora aspettiamo lo sciopero delle soubrette, delle veline, nei confronti dei calciatori, cosa dici? Sembra che la Federcalcio abbia provato a convincere veline, subrette, ragazze immagine a scioperare se i loro fidanzati calciatori scioperavano, capito? Come ritorsione. Cioè i calciatori incrociano le braccia e le veline incrociano le gambe? Bella questa, E ora, bambini, il sonnellino. Drago. Oh. Drago, quest'estate invece di divertirmi come te, io ho letto per intero uno studio matematico dell'Università di Chicago sul nepotismo nelle università italiane. Cosa stai dicendo? Uno studio matematico, sul nepotismo? Come si fa a fare uno studio matematico su una cosa come il nepotismo che non è matematico? Tu di matematica non capisci niente. Quindi in questo caso però è facile perché si tratta di una ricerca sulla ricorrenza degli stessi cognomi all'interno del corpo docente universitario italiano. È facile. La ricorrenza, cioè una festa, cos'è? A medicina ci sono 10.783 professori e soltanto 7.471 cognomi. Capito? Però se tu estrai a caso 10.783 cognomi da un insieme di 27.000 e ripeti questa estrazione per 1.000.000 di volte, la varietà dei cognomi è in media di 7.800 contro i 7.471 di medicina. Cosa significa? Drago, sveglia! Significa che alcuni cognomi all'interno delle facoltà di medicina sono decisamente troppo presenti, capisci? Io non ho capito niente. Ne dubitavo. Ma poi scusa, i cognomi, cosa c'entrano i cognomi? Se sei una docente donna, no? E piazzi i tuoi figli nella tua stessa facoltà, il cognome sarà diverso, ma saranno sempre i tuoi figli, quindi cosa vuol dire? Sì, ma infatti i risultati della ricerca sono sbagliati per difetto. Sei sicuro? Ma come la mettiamo con l'omonimia? Ci sono certi cognomi che sono molto comuni, non per questo chi li porta è parente, dai. Sì, ma l'Università di Chicago... No, guarda, mi spiace K, ma questa ricerca dell'Università di Chicago vale tanto quanto questa nostra discussione durante il sonnellino, e adesso se permetti io mi metto a dormire. Bravo, ma chi riesce a dormire a quest'ora, a questo caldo? Non posso mica mettermi a contare le pecore. Conta i cognomi dell'università italiana. Come on, baby, don't you wanna go? Facciamo due giri, facciamo due giri. Come on, baby, don't you wanna go? To the University of Chicago. Checco Zalone è passato dal ruolo di caratterista in TV e di idolo di YouTube a quello di protagonista di due film di enorme successo. Si sono creati due punti interrogativi nelle pupille. Checco Zalone, dai, con un po' pelato, fa ridere. Lui è stato scoperto dal figlio sedicenne di Valsecchi della TAU2, in pratica quello che poi ha prodotto i due film di Zalone. Ottimo fiuto. Sì, però è pur sempre un ragazzino di 16 anni. Ma hai visto che è successo? Appunto, quindi, ma cosa significa, dai? Significa che il figlio di Valsecchi ha un buon fiuto. Sarà vero quello, però significa soprattutto che la stragrande maggioranza del pubblico in Italia vuole vedere film da sedicenni. E come se non bastasse, adesso si è messa pure la figlia di Pietro Valsecchi, che non so quanti anni abbia, magari ne ha 14, no? La quale ha consigliato al padre la coprotagonista per il film dei Soliti Idioti. Sai la serie di MTV che c'è? Sì, perché fanno un film. Sembra di sì. E anche loro piacciono al figlio di Valsecchi. Quindi... Ma non era la figlia? Sì. No, cioè il figlio ci ha riprovato. Dopo Zalone ha consigliato Biggio e Mandelli dei Soliti Idioti, no? Il figlio. La figlia invece ha consigliato la bella ragazza che affianca Biggio e Mandelli. Cioè una ragazza che consiglia un'altra ragazza. Così visto prima. Comunque, vabbè. E com'è questa bella figliola della figlia Ma vattela vedere su Google Immagini. Si chiama Maddalena Ghenea. Però non è quello il punto. Il punto è che i figli adolescenti di un produttore cinematografico, ormai ne sanno più del padre. E questo è un sintomo chiarissimo di regressione. Vorrei di approfondire. Cosa ti preoccupi? Ma vabbè, io non capisco proprio allora, di cosa c'è. Io mi chiedo che ne sarebbe oggi di un genio come Pasolini se dovesse essere giudicato dai figli di Valsecchi. Cioè è in atto un degrado, una regressione, mi sembra evidente. Ma cosa vuol dire? Ai tempi di Pasolini le sale dei cinema erano piene per Jerry Lewis, mica per Pasolini. Sì, però insomma Pasolini. E Jerry Lewis era adatto a un pubblico di 8 anni, altro che 16. Vabbè. Quindi scusa, che regressione è regressione? È sempre andata così, Drago. Sei tu che sei sempre prevenuto verso la cultura bassa. Vabbè. Temi sempre di venirne risucchiato e annullato. Ma e io. Annichilito. Che tu, tra l'altro, che non sei nemmeno un intellettuale organico. È organico, magari ogni tanto vado anche. Cosa c'entra qui? Organico? Vabbè, queste sono cose che dici tu. Io non ho nessun problema con la cultura bassa. Anzi, la cultura bassa è giusto la mia altezza. Quindi vabbè, e allora goditi i film di Checco Zalone come fanno tutti, è zitto, no? Ma tu li hai visti almeno? Ma no, ma io no. Io penso che viviamo una regressione. Una regressione culturale. Una regressione civile. Una regressione molare. E anche una regressione politica. Allora, a Sabaudia, vicino a Roma, è successa una cosa tremenda. Vabbè, tra ma bambini. Sei vicino a Roma, cioè, vabbè, cosa dobbiamo vuol dire? Parlarne. Dobbiamo parlarne, sì, perché un tredicenne ha sfregiato una dodicenne con un coccio di bottiglia per questioni di gelosia. Cioè una roba tipo, ti devo dire una cosa, sono costretto a lasciarti, ma lo faccio per il tuo bene. Sì. Non ho un altro, te lo giuro. Te lo giuro, non ho un altro. È lui, te lo giuro. Coccio di bottiglie, sai come vanno a finire. La cosa più imbarazzante però è il pezzo apparso su Repubblica il 24 agosto di Massimo Lugli, che è pure uno scrittore, finalista allo Strega di 2 anni fa. Ah, lo Strega. Parlando della vicenda scrive, tra l'altro... I due si sono conosciuti in spiaggia e la simpatia si è trasformata in qualcosa di più profondo. Il legame però si è deteriorato dopo pochi giorni. Sabato scorso, la dodicenne ha annunciato la decisione di rompere il rapporto. Colto da un accesso di rabbia, il ragazzo l'ha colpita in pieno viso. Beh, preciso, secco come un libro noir, cosa c'è? Appunto, perfetto, è troppo libro noir, dai, sono due bambini. È assurdo per una storiella innocente come quelle che succedono a 12-13 anni che si scrivano frasi come il legame però si è deteriorato dopo pochi giorni. Sabato scorso la dodicenne ha annunciato la decisione di rompere il rapporto. Cioè, il fatto che il soggetto sia una dodicenne stride con la frase «ha annunciato la decisione di scusa, rompere non ero il rapporto». Pronto. Ma scusa, lo scrittore Lugli si è fatto prendere un po' la mano. Ha surclassato il giornalista Lugli e ha scritto queste cose. Ma succede? Sì, però pensa a sti due ragazzi, magari leggono il pezzo e si sentono grandi, importanti. Uè, io gli ho annunciato la decisione di interrompere il rapporto, capito? Che ci voleva di nuovo la musichetta. Riconduciamo tutto a un profilo un po' più basso. Io suono e tu declami, però un po' più basso. Tipo facciamo una cosa così. Caro tredicenne, la tua lei ti ha lasciato? Succede, sono le cose dell'amore. Ma tu pensa che i tuoi amici invece sono ancora lì con te? Pronti a sfidarti ai videogame o sullo skateboard? Sì. O nella gara di Rutti? Di Rutti! Pensaci, non è con i cocci di bottiglia che puoi tornare a sorridere. Ecco, che ne dici? Quanti ne ho salvati con quest'appello? Ma secondo me non convinci nessuno. Ma come no? Ho fatto la voce più suadente che potevo. Ma no, ma sei un po' patetico, capito? Se ti avessi sentito parlare così a 13 anni io, per esempio, sarei venuto col coccio a sfregiare te. Ma come? Hai capito? Con il coccio di bottiglia, ma Drago! No, ma stai calmo. Ringrazio adesso. Che ne ho 40 e passa. Che a 40 e passa si usa di più. La mazza ferrata, Drago! La mazza ferrata ci vorrebbe con te. Aia! Aia! E ancora la fine di Chiedo Asilo. Vabbè. Abbiamo capito che suoni piazzo con gusto, ma qui dai piani alti non vogliono che gli ascoltatori contenuto. Lascino i loro memori bambini al maschile. Le loro bambinate possono essere così dette, recitate e declamate allo 02 46 52 44 95. La segreteria telefonica accoglierà le vostre bambinate e poi magari le facciamo anche sentire. È più bello. Dai, mi raccomando, creativi i vostri e anche Chiedo Asilo tra 24.it.